senti? Sì, io sì, tu. Allora, però ci sono più telecamere attaccate dei distributori che ho a disposizione, come è possibile? Dunque. No, io quelle due che ho staccato ho bianco e arancio, bianco e bianco e marrone, sì. Allora, questa non è, aspetta. Prova ad attaccare adesso. Ok, questa è il bianco arancio. Ma quale stai facendo? Non è che davvero ci va a toccare qualcosa nella telecamera? Niente. Aspetta un secondo che provo una cosa. Dimmi cosa c'è. Niente, non c'è un giù che andiamo a tettermi. Sì. Giù che andiamo a cacchio, che cazzo. Sì, aspetta che ti deve dire cosa Mariano. Parla Maria. Sì. Vai, vai. Sono col walkie talkie, vai. Oh. Parla. Oh, dirgli di cosa, 1975. 1975? Mica. Va bene. E va, rispondere al telefono, devo passare a prendere una cosa. Adesso faccio richiamare. Oh. Mo. Chi è? Chi è che non stai uscendo? Non stai uscendo? Niente. Non esci. Nulla. Buttaci. Buttaci tutto. Robbe. Luca, chi sei? Vabbè. No, no, molto su. Buttaci tutto. Chi è? Non stai uscendo? Luca, ci sei? Buffo, testa di pagello! Capo di Vandarino! Luca! Luca Cagallongo! E io e io! E beh, grazie! Ti ho chiamato poco fa, ma tu? Sono arrivato, non c'ero, sono usciti presto, dai! Sono andato a farti un giro e poi siamo andati lì a... Questa è festa di carnevale e abbiamo mangiato le prigiole. Buono, buono. No, no, è entrato nessuno. Però voglio entrare, mi presumo. Noi sia, boh. Ai, vabbè. Mi ho fatto, non so che scende dalla doccia, mi ho fatto la barba, i capelli, la doccia, tutto bello pulito. E niente, non verrà nessuno in occhi. Non ho capito, grazie. Che non c'era nessuno in radio, allora dici, beh, ci mi posso la barba, ribelli, mi ho fatto la doccia, non sto uscendo adesso da tutta la doccia. Tutto bello, bello, mi sono fatto. E Luca, prima però era Magnina Ranza a scrocco in campagna di Giorni Maria. Si è fatto una bella mangiata. Sì, roba glicemia alle stelle. No, medici su, arazzo, razzo, in cui. Che ti piace ai belli, isu? Luca, gli abbelli, a mangia razzo, in cui dolce, mangia tutto, cosa fa? E a puro? Tore non mi attessi, Tore non l'ha invitato, Marò, Giorni Maria. Cosa che parla, posso fare prigioni io? Bonimi, oh yeah, il cura capi buoni, inteso, è Luca. Ma le sono usciti buoni, vero so. E lui, vettore. E lascia organta, Edo, lascia organta. Anche non ne sa fa, Edo, lasciatemi, bonimi. Ma anche quelle col buco è fatto. No, quelle lunghe, quelle a giro. Fattile. Oh, ho fatto quelle lunghe, ho fatto. Già sono buoni. E cosa ci hai messo? Anice o sambuca? Anice. E cu la cazzo la magna, mi. Anne buone si imbriacheggi subito. No, non ci butto una fialetta minore da non ci butto. Ah, le fialette, quelle là, no? Pensavo che c'avevi la bottiglia e facevi al gusto tuo il dosaggio. Ah, oh, ho voluto mettere solo una fialetta piccola e basta. E finché troppo, venne. No, anche noi. Già ce l'ho io in bottiglia, l'ance, quello per i dolci. Però c'è anche il misurino Paoletta, capito? In base a quanto le fai, adopri quel misurino e metti la quantità giusta. Ti dico che faccio una casa piena di fiago. Ehi, c'è fiago buono. Luca, cosa ne dici tu? Aspetta un attimo, sto sistemando la spesa. Eia, non le mettere sotto il letto, mi. Grazie di zeni, grazie. Luca ha detto che sta sistemando la spesa e la gente hanno pulito sotto il letto. per gli intrusi, no? Così che andavo in cacchetto, dimmi, non va giù ruta. Andava, faceva, si c'era gua. Non è entrato nessuno, ma tu eri poco fa, cerca di entrare. Capito che sia, solo i gelati metto sotto il letto, il resto tutto dentro i mobili. Cosa ci metti i gelati? Io già pongo tutto qua in cucina. Nel pesce, nel frigo a pozzetto con la cazzetti, che adesso non lo sto usando, è spento. Ne metto anche lì dentro, quando non ci sta, dentro i pensieri. Quando è spento, no? Ci metto merendine, queste cose voluminose così. È vero. Allora, per dire... Se compro una confezione di caffè e non ci sta nel pensiero che c'è sopra, mi voglio giorno un astuccio e l'altro ce lo metto là dentro. O lo scottese, lo stesso, per non stare in mezzo ai piedi, no? No, noi mettiamo tutto dentro il mobile, in cucina, tutto. Tutto lì. Uiaia. Allora hai fatto i brigioli, noi li abbiamo mangiati lì al Tanit, erano buone. Sì, mi sono buco, dalle due e mezzo, anzi, dalle due, e ho finito con le cinque e mezza quasi. Un bene hai fatto? Un chilo di roba, ne sono usciti di 10 rotoli. A voglia. Anzi, 10 rotoli e mezzo, che ne sono un pezzaretto minore, un rotolo minorito. A voglia, magna. Ma pure la regale qui la fai magna. Ma cos'ho da chi? Un pezzo assaggiato, poverino, burbaide e carracciale, vero Luca? E tondo. Se tu lo vedi, drummiddi no, gavà. Pensando a te. L'avrai attambainato con un fuoco di rifrigione e sembra agata la zura. La notte me ne sogno io. Embriago e c'è drumito. Sì, a rezzinco e mezzo ci butta due iossi, ci ho fatto fare un giro mano per smaltire. È triste raga mia, il merciato. Te più vai se ci rubiaco da innanto a me. Già sono buone, però già ne fa odore. Io quando faccio così chiudo la porta di cucina e apro tutta la porta a finestra. Poi attacco l'aspiratore, la ventola, anche se non si entra dentro, bussere già tutto. Sì, io avevo la porta chiusa, la finestra aperta, l'avvento d'aspirazione. La mia bocca di cosa accesa. Così quando fa fritto, lo faccio io, la chiudo sempre la porta. Ma che puzzino giù? Una volta mi sono convisato lo masano, intendia il ciubiaco di frisso in camera da letto, e apri tutto quanto. E per rimasto un paggio di dì. Vabbè dai, è profumato a casa tu. Catta, bebbe, non ne voglio più, no. Troppo travaglio vivo. Voi intendete un fiacco, ma 2 o 3 dì intendi. Non è fiago, è profumo. Ma una volta all'anno cosa vuoi che sia? Catta, non ne voglio più. Ragazzi, la prossima volta... Al limite ne fai più bene o ti organizzi più bene, ti metti, non ce l'hai quella ventola grande, quella a piede stallo, quella che appoggi sul tavolo. Attacchi chissà, io vado un buru chissà. Ah, io volevo fare i fatti fritti, le ciambelle con il buco. E sono buoni i buru chissi, sono buoni anche quelli lì, sono buoni. Anche noi li facciamo. Quelli anche se noi carracciamo. Sti mani ragazzi non avevano bisogno che ti lasci carracciare. No, vabbè, l'ho lievitato bene, hanno, belle sono uscite. Caspita, l'ho lasciato lievitare un'oretta, come c'era scritto nell'affare. L'ho lasciato lievitare un'oretta. E ci sono come te la giubbo ci si gonfiavano. Certo, allora già va bene. No, quella già non è buona, ne hanno fatto un bel. Viste quelle staffatte che portano, dove portano le paste. Ce n'erano 2 o 3 belle piene, tagliate già a pezzi. Erano buone, dai. Ma già tu due pezzi marina. Ma a Carrefour te le hai comprate? Oh, c'è la festa del carnevale dei bambini, hanno messo le frittelle gratis per tutti. Gratis, raga. Ah, su, dove c'è quella sala dei bambini, di lì. Cioè, ci sono andato a un compleanno di mio nipotino, un paio di volte ero andato. Però i dolci li avevamo portati noi. Ah, lì hanno fatto, c'erano gli animatori, c'erano quelli che disegnavano i bambini, no? Facevano i disegni in faccia. Truccatori, come si chiama. E poi quelli che animavano il carnevale facevano divertire i bambini e poi hanno fatto le frittelle e caramelle. Già lo so dove. Due volte siamo andati noi, però ognuno portava i dolci, pasta, pasticcini, insomma gli succhi puri. E c'era bellino, tutti i bambini giocando nei aggazzini, per carità. Sì, al Tanice. Eia. Così che. Vediamo se c'è l'ora ci si. Luca Palino. E dove, Cla? Ciao, Cla, dove? C'è al Tanice, dei servizi lì, proprio vicino ai bambini. Ehi, Cla, chi l'ha vista? Non c'è un po' di gente. Dove? Ma dove? Dove, che punto rimane? Ah, dove c'è la pizzeria? Sì, ho scelto il break. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Claudio. Non l'ho vista. Quella roba. Sì, perfettamente. No, è a posto, devo solo trovare il tempo per giocare con voi oggi. Devo trovare il tempo per darti il computer e fare una pulizia e basta. Però già sta funzionando. Va bene. Meglio così, avanti to. Dai, mi stacco, dai, ti stavo ascoltando. Ciao, Lu. Ciao anche a Graziano e a Tore, dai, ci sentiamo. Riprendi, grazie. Eia, ciao Claudio. Alla prossima, salutami il cagnolino. Ciao, vai Luca. Eia, ciao Claudio. Alla prossima, già sei minocchi, dai. Avanti, Tore. Aspettate un attimo che sto facendo una cosa. Ciao Claudio, ci sentiamo alle prossime. Che sto facendo una cosa, aspettate un pochettino. Ciao. Vito, mangia le frittelle. No, non è per quello. Ok, riprendi lui. Ma Luca c'era? Oh, mi pare che la gentesa al sole ha questa la battuta. Sarà sbucciando arancio per farle allo spiedo. Chi si è usato la buccia a casa a farla brodo? E poi li sta infilando nello spiedo, capito? Sì, ho capito. Lo dovevi vedere, caspita, proprio il campagnolo, lui, in mezzo alle frasche. E la sua passione fa di peggio. Senti, oggi il burro era all'operai. È vero. E chi da cappuccinato e cammellini, non è compreso. Purtroppo funziona così, in divisi il padrono. Ehi, vera John Mariera girando in tondo con la moto zappa. Sempre girando in tondo, Ila. Vabbè. Grazie, se l'ascolto. Ho incontrato Antonio Grode, lì a Danic. È sempre lì, lui lavora lì. Soprattutto queste feste. Ehi, vabbè, intanto ce lo vedevo. E dice che anche lui è entrato in 27, da poco. Perché l'ha sentito più? Daniele è entrato l'altro giorno, in 26. Giulio, qualcuno così. No, io ce l'ho staccato qua. C'era una ditta accaduto, l'ho staccato tutto. No, vabbè, io lo tengo, se capita, se c'è qualcuno, chiacchiero, se no se la biglia il culo. Sì, mi viene la gara della piazza, è tutto lì. Quando ci è venuta la figlia di Marina, era in cameretta, ho dovuto smontare, mica glielo lascia fuori. Vabbè, grazie a... Adesso tocca a te a fare le frigiole, mia io. Ma io non è che mi posso anche carracciare, no? E io se lascio di fare posso pure di noi carracciare. Ma aspetto al periodo a farmi la favata. Che non me ne vai negare, abbia e me la posso, capi? Non so così chi si chiama di asitarno. E figlio e me la posso. Qua sei a otto. Ma io preferisco di più la cecciata, sono sincero, la carne, così mangio tutto, le fave non... perché non mi piacciono, cioè non... Se quelle fresche sì, ma quelle secche non mi attirano proprio. Quello condimento sì. Se le metti dalla sera prima a bagnomaria, già sono buone anche quelle secche. Solo che il marasolto, un po' di volte li devi azzeccare. L'ultima volta mi l'ha dato i misciati, chissà frutta e verdura di Oggiano che venivi, dove abita Luca. A chi veniva di cottura e se non erano di cottura, era misciata. Infatti quando sono cantato mi l'ha giudito, non si fa così a zio, avevano tenuto i bigliù bigliù. Vabbè. Poi c'è quella che ha preso mamma, sono tutte spaccate. Dice lei, sono belle, prendile un pacco. Prendile, si vede che sono tutte aperte. Vabbè. Ultimamente stanno vendendo Mondetta, chissà da dove proviene. Ma no, io quando è il periodo già ne compro, la compro a casa, me le sbuccio e si sbongo i sacchetti, quelli del freezer, quelli grandi che vendono. E me ne faccio la sconta, capito? Li metto sotto nel poffetto, i piselli, tutte queste robe lì. Faccio ancora pisello e fagioli freschi, fagioli pappa, freschi mi. La giugoci da poco, un poco, buonaretti, belli gazzosi. Però sono freschi quelli. Non mi caso come te che ci dirà cattura, manca bianco. E quando ne ho voglia ne levo, li levo da lì e me li faccio, li levo la sera prima. Poi ci ho messo gli asparagi messi in prima, quando ne ho voglia me li mangio, ce li mangiamo Maria, così non stiamo ogni volta a andare, che lì vuole andare, vabbè ti fa anche una passeggiata, ma non me ne ha fatti nulla, mi la vengo, va. La compagna non ne compro, a me non so quello che mangio anche. Fine amici di quei mazzi che ti ho detto, ce n'è ancora Nel tegame, nel forno qua, li ho messi lì dopo pranzo, perché ne sono rimasti. Li ho messi una cassarola minore e sono al forno. Si lavano a mangiare la luce, io già non li voglio. E già sono buoni, dai. Ha voglia. Già fanno bene. Io ho deciso di farli una volta alla settimana, anche 8 giorni, anche 10, dai. Oggi ho cucinato tortellini alla panna e fettine di cavallo a dondolo, aglio, prosciutto e peperoncino. Tortellini alla panna, però ci ho messo il prosciutto a dadini in mezzo anche. Ci ho messo. Buoni, mi ha mangiato una decina, saranno stati. Capita, male, diciamo. A voglia. Se te mangi una decina, sì. Che poi non erano quelli piccoli, sono quelli appena più larghi, più grandi, che erano alla carne, erano qui. E adesso ci divoro. Poi mi ho messo un po' di pepe sopra. Bello, proprio saporito. Ehi, andava bene. Interessante mangiare. Grazie, ragazzi. Che è avanti? Avanti! Non ci vuole entrare. E poi per secondo un pezzino di cavallo, un arancio e buh, tutto fatto. Oh, dalla voce mi è sembrato Marino. Marino, tu sì. Vabbè. Ci avrà l'antenna nuova, magari non è uscita adesso. Marino, tu sei? Beh, Tore sta ancora mangiando. Sicuramente. Non so come niente, che stavo aggiustando un pezzo di cosa, stavo aggiustando. Stiamo vedendo chi fa. Continuate, appena finisco già entro. Sì, vi ravvoto. Andate. Tore sta inzuppando le frittelle nel latte. No, che so che consegni una cosa ai nomi. Ci veredisco. Se no, Rabiglio c'era come una mondezza. Buonasera. Ciao Mari. Ciao Tore, ciao Luca, ciao Graziano, buonasera a tre. Avanti Graziano. Ciao Mari, infatti ci ho dato la voce, eri tu poco qua. Stavo collegando un'altra cosa, ero io. Signor Bacchisio, non è entrato? No, deve essere scivolato dentro una gara a crepa. Una ida, dobbiamo una farvatta. Avanti Luca, con queste frittelle nel latte, dove l'hai visto? A me non mi piace. Ehi, ciao Mari. Forte chiasso qua, Luca, sto usando il gommino, o ti metti fermo, perché adesso non ti ho ascoltato, poc'anzi di chiaro chiaro. Adesso negativo. Adesso mi senti, 1, 2, 3, prova. Adesso sei un amore, avanti. Queste frittelle nel latte, dove l'hai vista? Io la frittella la mangio regolarmente, normale, non nel latte. Dopo, vabbè, ognuno. E come cosa si mangia il panettone nel latte? Avanti, Luca. Tore, sta mangiando le frittelle nel latte. Luci, Tore, mi meraviglio di te, per carità. Avanti, no, Tore sta facendo un lavoretto, avanti, signor Graziano, ho sentito il menù che hai mangiato oggi, avanti. Eia, ma le frittelle nel latte sono cattive, pucci. Le frittelle quelle normali, quelle con il buco, con il latte, già vanno bene, con il latte. Ma non i prigioni che si ingarrasciano, no. Con sapore dell'anice e dei buoni rulati, pucci. Ma Tore vizioso, grazie a Tore vizioso. Non c'è nulla a fare. Tore c'ha tanti vizi. Avanti Luca. Vizioso c'è di voi, siete. Catta, poi non possiamo manco mangiare il latte io. Pensa un poco. Chi doveva pensare mai a pensa Luca? Ma le frittelle già le puoi mangiare, sì. Ah, io impuccetemi, fate largo. Buonasera a lei, avanti. Fate largo che faccio io, buonasera a tutti. Belli e brutti, avanti Luca per signor Bacchisio. Ciao Bacchisio, salutoni, ben sentito, avanti, grazie. Ciao Bacchisio, ben sentito. Caspita, Tore era preoccupato che non eri entrato. Ti sta aspettando andare a prenderti le frittelle che ha fatto lui stasera, amico. Diglielo, Tore. Vanno mangiate insieme al latte comunque, mi bacchisi, avanti to. Sì, fissate se due urorate, due puro. Certo, buonasera signor Bacchi. Ben entrato. Anda bene. Ia, ben uscito anche. Benissimo, saluti a tutti ancora. Beh, ma dico, mi ascolti, sto andando con la piccolina, eh. Guarda, motivazione leggermente un po' nasina, ma appena appena. Però è pulita, è senza quel reme, pulita, pulita, va bene. L'ho lavata con Perlana. No, perché l'altra l'ho scesa per spostare di palo. Solo che non c'avevo la scala, che la scala in garage non arrivavo con quella che c'era, non si fa, è colpa, adesso domani lo faccio. In tutti i modi quella lì, sai cos'è, adesso che l'ho scesa, che l'ho letto, è un X50. Ma la tua? Capito, Marì. Ma la tua o la mia? La mia è un X50. Dai 144 ai 340. Ma quella che c'ho io? Quella che c'ho io. Ah, perché io c'è l'adesivo sulla mia, capito? Va bene, va benissimo, dai, da chi? Non so qual è la migliore, se è la 30 o la 50, boh. Vabbè, facciamo girare. A signor Luca, avanti. Ehi, a tutti bene, tutti bene, va bene, ottimi. Avanti, lo chef di Santa Maria di Pisa. Eia, eia, oggi ho visto su compra e vendo, su nel telefonino, un antennino stanno vendendo di macchina, però che tipo mi pare che di butto d'ora, 10 euro, un'antenna là. Mi sento che racconto, Luca, ti sei nuovamente spostato, che ti ho ascoltato leggermente in mezzo al QRM. Ma per la 27, grazie. Non te lo so dire, no, a Giulici, poi stava vendendo un come il cavolo si chiama? Attacchi l'antenna, un deviatore d'antenna, poi un altro affare. Su compra e vendo nel cellulare, se ci guardi c'è ancora, ma Mari, poco fa c'era ancora, alcune cose, anche quei PL stavano vendendo, un cartone di PL c'è, di tutte le maniere, AL, curvati, di tutte le maniere, un euro mi pare, boh. Un cartone, che santo, ve ne è in mezzo. Avanti, siamo da Chisio. Ehi, abbiamo finito il lavoro, Marì? Finito? No, al più bello, ho smesso perché il mio genero doveva fare delle commissioni urgenti. Poi domani ti spiego, Bacchi. No, ho messo la tua sopra, quella che c'avevo prima. L'ho messo il cavo grosso. Adesso c'è da dare solo il coso, il PL. Però devo fare un piccolo spezzone, dove li fare. Perché ti ricordo che l'abbiamo tagliato, adesso logicamente l'ho messo leggermente più in alto e non arriva. Dobbiamo fare uno spezzone, dobbiamo fare adesso, e vabbè. No, invece nell'altra tolgo il danno, ho messo già il paletto nell'altra, roba qui. Il paletto e sono pronto a attaccare, adesso vediamo domani se ce la faccio, salve complicazioni, massimo dopo mai l'attacco, dai. Avanti. Ok, allora quasi terminato. È quasi finito il lavoro. Avanti, grazie. Eia, eia. Allora Giulio Gigi, poverina, violentata una bambina di 7 anni, violentata con un tubo. Che macco. A lui l'avevi fatto la cosa, l'avevi fatto. Non ammazzarlo subito, l'avevi fatto soffrire piano piano. Prima il tubo, poi l'avevi tagliato un'unghia, un dito, poi un dito del piede, piano piano. Vuoi farlo soffrire così? Avanti, Luca. No, a quello li facevo io, dei tagliettini delle braccia, nelle gambe li mettevo il sale. Bene, così, oppure l'avrei messo in una stanza chiusa con un buco al soffitto, dove entra il sole, e che scende in fronte una goccia di olio caldo, proprio a fare il buco. Avanti, Bacchi. E così a volerlo bene. Invece l'unica cosa è prendere un blocchetto, mettergli un pezzo di corda al collo, portarlo lì verso Palai e buttarlo dentro. Ma amore, è veloce, ma chi non va bene così, così non soffre, scusa. Meglio farlo soffrire piano piano. Lo devi fare soffrire, lo leghi, le tagli un dito, un orecchio, piano piano, senza farlo un po' ogni giorno, no? Deve morire piano piano, avanti, grazie. Ehi! Io l'avevo bedugliato, un gnadini l'aveva tagliato un pizzo e poi l'avrei scomparso tutto spazio di quelle formiche a testa rossa, gli avrei messo il miele sopra i tagli, avevo visto che ne era uscito un macchino, allora da poi tutto va a entrare in un naso, in l'areccio, ci andano i burro salviti, avevo visto che ne era abbassata la maniglia. Oppure l'avrei fatto un paio di tagli a far uscire un po' di sangue e l'avrei buttato in mezzo maiale, capito? In mezzo maiale l'avrei buttato, avanti Luca. Ma oggi si rimaniamo subito, no? Muore subito così. E un po' cosa soffre, piano piano. E allora facciamo come hai detto tu, dai, un po' di tagli, un po' di miele caldo e un po' di formiche. Un po' di formiche e un po' di topolini l'avrei buttati. Avanti Luca. No, dei tagli, ma sul sale, so come soffre, come un animale, soffre, e allora piano, lui deve soffrire come peggio, quando fanno, deve soffrire, punto. Allora, stanno prendendo un pezzo del Alan, Alan 2716, e antenna Buffulef e poi l'altro pezzo della ZG. Sì, ma che pezzo è? Allora questo c'è scritto 2716 NeoF CBK radio antenna duplexer car radio e l'altra è ZG Italy antenna 145 della CTE di marca. A me mi pare uno va un'entrata e un'uscita, l'altro c'ha un'entrata e due uscite. Mandami la foto. Duplex. Mandami la foto, grazie. E come faccio a mandartela? È su compra e vendo, non ci riesco a fartelo da qua. Te lo blocchi leggermente e poi le mandi la foto. Avanti, siamo da Chisio. Io faccio guardare, vendo e compro e vendo e lo trovi. E il prezzo, grazie, alle stelle. No, 15 euro, e sono due pezzi, c'è anche il filo attaccato con il PL, è un PL massi, e anche i fili ci sono attaccati. 15 euro, è scritto Duplex, si chiama, pubblicazione circa un giorno fa, ieri l'ha pubblicato, si chiama, che lo sta vendendo, Christian Sardus. Ed è elettronica computer categoria, allora è Porto Torres, la posizione è a Porto Torres. Ma se non c'è indirizzo è peggio dello buzzo, ma Porto Torres è grande, avanti Tore. No, dal telefonino gli scrivi che sei interessato e poi già gli metti che sei interessato il numero di telefono e ti manda il messaggio o ti telefona a lui come faccio io quando devo comprare qualcosa. Ah, ok, andavano bene allora. Tore, ci sei? Tore, sta mangiando le frittelle con la Nutella o Bacchi, avanti. Sì, con la Nutella sì, du puro. Ciao. Anda, anda, bubu. Ehi, fategli la richiesta direttamente e ve li porto a casa. Mandami le 5 chili, Vittore. Sì, subito. Anche te credi sia una pasticceria, Senza Nutella, naturale. Andiamo via, andiamo. Andiamo male, no. Avanti, signor Luca. Vabbè, dai. Ogni tanto si fanno, una volta all'anno. Non so come si fa una volta all'anno, i prisioni, no. Ti sei nuovamente spostato, Luca, Ti sei, o ti sei alzato, ti sei spostato, non ti sento. Vero segnale, ma modulazione zero. Avanti, salva chi? Perché non ascolti a Luca stasera? No, siccome usa il gommino, ogni tanto si sposta e io non ascolto. Poc'anzi era bello, bello pulito, modulazione limpida, ma ogni tanto come si muove va via la modulazione, capito? Avanti. E vuol dire se quel remo in giro anda bene meno, no? Ma con la grande stai uscendo con l'antenino piccolo. Io Luca. Avanti, grazie. Chiacchiera. Sta preso uno strano a 12 euro il chilogrammo. Già nello spiedo, Che lo spiedo ti dà? Già cucci lo spiedo, lo sta vendendo già cotto. E oggi è il pollo? No, capretto, uno strano, 12 euro per scritto, sarà lucchino, è già bello cotto, infilato nello spiedo. A me piace il capretto, io sono vizioso, a me piace il cavallo, o il porcetto. E messo il capretto, cucci per scritto. Signor Vettore, sei impegnato, da. Luca, avanti. Mi senti adesso, prova. Adesso va benissimo, rimani fisso lì, non ti muovere, avanti. Vabbè, sono appunto verso la parte di Graziano, mi senti. Sono appunto dall'altra parte, non mi senti, cioè dalla parte di Gio Maria, dai. Esatto, adesso si arrivi come Graziano. Modulazione bella, pulita e limpida, è forte, avanti. E anche tu stai andando benissimo, sei a fondo scala. Va bene, dai. Dai, almeno mi ci portiamo, ci vieni Graziano, ti portiamo a Tempio, Ugarrasciari. No, è per me, no. Già ci sono andato tante volte a Tempio. Vabbè, dai, ti volevo portare io. No, non fa per me, sono finiti questi tempi. Non fa, se no già ci sarei andato volentieri. Ma non andava, non funziona. La solita sono andata all'arena, mi ci sono durata a casa, la perché. Quelle in moto a strappo. Ci vuole una passatina di grasso, ci vuole. È intrusciato, Avete modulato in quattro adesso, Graziano, un bacchisio. Cos'è stai dicendo, bacchino, un po' di grasso? Se no già prima, che non era grave come adesso, già ci andavo. Ma adesso mi rischio poco. Sta invecchiando, Graziano, sta invecchiando, va bene, qua chi non invecchia. Capretto, avanti Luca. No, non è quello, è che mi dà fastidio, capito. Già ho capito, Garzia, già ho capito subito, vai tranquillo. Io sono troppe volte sono andato a Tempio, sono andato già minimo una decina di volte, minimo. E sempre la stessa cosa, si cambia le maschere, ma il sistema è lo stesso. Stamattina ho fatto un giro alla Senose, sta facendo una commissione, tutto coriandolo in terra, tutto coriandoli. Che mondezza. Non coriandolo, Mondezzo deve dire. Ho capito, no. I coriandoli li buttano in terra, boh. Vabbè, Mondezzo si chiama coriandoli, là. già vediamo un datore bravi, altri dolci, vai. Questa di pelle non c'è più, evidentemente si danno i comparati. Ci sono canne da pesca. La scatola di pelle è già sparita, così è. Sì, non c'è più, sto guardando. A posto di quelli adesso ci sono canne da pesca. Non ci interessa, avanti Bacchi. Ci è arrivato cosa veloce. A quel prezzo, secondo quanti ci sono, aveva fatto un blocco, grazie, ha capito? Sicuramente si era venduto a blocco. c'era un'altra cosa anche. Sto guardando se c'è, ma mi sa se ne è comparato pure un ciao, non so se era un alimentatore o cosa era. Era bellino. Tutto comparendo. Cavallina, la materia prima manca, avanti siamo da Chisio. Quindi a comprare la scatola chiusa. Grazie, a comprare la scatola chiusa questa roba. No, quella è qualche CB che si è rotto le palle, si sta vendendo tutto. L'altro giorno c'erano 4 o 5 radio anche, un Lincoln Vela, quello le voleva 200 euro, con la scheda c'era scritto, poi ce n'erano Intec 100 euro, un altro tipo di radio 100 euro, c'erano belline. Qualcuno che no, non è entrata più se vende di tutto. Tante roba che funziona, andava. Magari funziona oggi, domani ti rompi. No, tutta roba funzionante, che era di Porto Torre stesso quello, c'era anche la fotografia. Cosa è? Adesso non mi viene il nome, quel tipo che sta vendendo tutta quella roba lì. E chi entrava sempre? Sandro è di Bussudorra. Sandro. Tutto sta venuto così? Sì, l'altro giorno c'erano tre o quattro radio, ce n'era anche uno con la scheda Golf. Quello ne voleva 200 euro, però era bella la radio, nuovi nuovi. Si vedeva che proprio nella fotografia tutta roba nuova, funzionante, c'era anche scritto. Ma quella cos'era? Da base oppure da macchina? Ce n'erano da base, ne c'era scritto e anche di autovetture. Ho capito, dai. Avanti, siamo da Chisio. Così bisogna vedere se ce ne vuole la candela da comprare. Oppure sono malmessi. Magari guardando così in fotografia sembrano a posto, è tutto perfetto. Poi bisogna vedere di persona come sono. No, ma quando entrava Sandro funzionava benissimo. Te lo ricordi, Luca? Arrivava una bomba qua. Già me ne ricordo. Già me ne ricordo, grazie. Ma se ne ha smontato tutto, visto che non c'è più manco l'antenna sul tetto. Ehi, se vendendo tutto devo assegnare anche un primo. Io l'ho sempre sentito bene, anche quando saliva qua a Sassari, in vettura lo copiavo benissimo, andava spesso qui al supermercato, a bomboletta arriva, sempre bene l'ho sentito, anche rientrando da Valle d'Oria, lo sentivo sempre. Tore che fine ha fatto? Dormito si è? Tore, insieme alla cucina, fendi i prigioni o da chi? Fuggi i prigioni, ha imbriagato qui in Sarugani. Vuole fendi i prigioni in Palagosina? Sì, tanto voi non ne mangi niente, anda bene. Vero Bacchi? Scusa Bacchi, ma quale stai facendo? Quale tonde, quel buco o i sironghi? I sironghi? Beh, tanda. E se no tira a giambi. Andave. Cata, Bacchi, che dai niente girosa, oh. Niente, che io non lo so. A chi non andate, vi ricomparete, oppure non andate ad attore a magneti. E dopo si muove a farvi dare in due, buru. Chi non si piace a prigiola. Bacchi veramente ha detto che è freddo, basiano, venire in macchina da tutti. Ma l'hai bisciata male, l'hai bisciata tu. E la poi ha detto, faccio una ruota sgonfia. Ma come non fai altre cose sgonfi? Vero, Bacchi? Grazie a sgonfia l'ha fatta, così è. E allora, chi così mi dice di più? Io non mi cade se sono sgonfi, quando sono sgonfi non mi cade nulla. Sgonfie. No, sgonfiale tutte me. Sì, raggio confiati, raggio. Andiamo via, andiamo. Catta, bubu. Uiuia. Se non ci ho fatto tanto per assaggiare, bubu. Ma dove vado? Da chi ne vado? Fatta, avete se ne assaggiare, ba. Sto ma chi l'accusa si che è nemico? Pasta gialla, cosa pasta gialla? Andiamo a catta. E con un chilo di farina che tu poi che ti innesciani. E ma così cucchini. Beh, a chi da voi greci nemici? Cosa cazzo, me ne sono usciti dei giri. In che senso? Ne escono due chili almeno, perché c'è il latte, tutti i condimenti, capito? Fai un chilo e mezzo, un chilo e sei. Ma quanto l'ha fatto? Dei zecchini, oh, grazie. Ah, attore. Oh, se ne ho fatto, ce ne saranno due chili e mezzo di cosa. Già va bene, dai, sto passando, apri la porta, dai. È una ricetta, Andie. E tu vuoi sapere troppo, vuoi sapere? Sabato, quando arriva tua figlia. Seba, chi? Sabato? Sabato arriva la figlia di Toro, deve fare le fritelle. Sì, grande festa, to. Minimo devi fare dei zecchini sabato, me. Sì, non posso altro, già mi sono cercato la gira. Pensa un po' così per il vostro sabato. No, basta, ne ero manco 15 zecchini. Bifino, la fai venire no, che non fai assaggiare per i giuri. Vabbè ragazzi, io chiudo là che devo fare cosa, ce la sentiamo a domani se coincide. Ciao Tore, ciao Bacchisio, ciao Marino, ciao Luca, ciao che l'ascolto, ciao a tutti, a domani, vai tu Bacchi. Andy Giannelli. Ok, ciao, buona serata, buon corretti, buona cena, buon tutto, saluto la signora. A domani ci coincide, avanti Cristiano, Luca. Si manda a voi sta ricetta, indie. Che è la parte di Marina, ciao, avanti Marino. Ok, ciao, grazie, ben sentito, a domani ci coincide, saluto la signora, avanti signor Tore. E mo la salvezione, non si mangia niente. Ma c'è un viaggio ancora in Nanto, pensa un poco. Ciao, grazie, stammi bene, a domani. Tore, ammira dai la ricetta. E così sia. Domani ci stiamo l'antenna. Sai quella cosa, quei regalini come erano lì? Tutti mangiati. Sta sedia è quello lì, Bacchi. E sta sedia non vedo da arrivare. Io non t'ho chiamato, allora il pranzo era sul tetto, ma c'era quell'aria fresca, gli tuoi spioni mi chiami veloce, poi così per caso mi ho chiamato una cosa Antonello, ma per controllo e l'ho fissata, ma mi sono sceso veloce mi sono parato, per carità, sembra così, anche se c'è il sole c'era un po' di fresco sul tetto, avvaggio piazzato, adesso è solo da piazzare qua a fare il piede, domani vediamo se ce la facciamo a piazzare l'altra da 27, se no ci temono dopo domani, pazienza. Se no invece da 27 fai 28, caspita, hai quasi fatto ormai, il più l'hai fatto, un'oretta di lavoro te lo fai. Esatto, stamattina l'ho tutta pulita, no, e ho lo spray già pronto, poi stasera una cosa e l'altra, abbiamo smontato il ponteggio, tolto e appoggiato, adesso con calma domani, perché il mio giorno deve lavorare, domani ciccia. Porto via tutto e poi vediamo se piazzo, se ce la facciamo a piazza domani, se no dopo domani. Ma si veda, se no tutto qua bene, avanti to. Anda beh, anda ui accatta, anda beh, boh. Quindi vi si è rotta l'antenna? Ma come ce l'hai? Non ti si è rotta l'antenna? No, qua da 27 mi si è fasciata, ma già c'ho l'altra. Già si può aggiustare, sì, però piazzo l'altra, c'ho quella con 8 radiali, c'ho, come si chiama? Quella che c'ha la carica trasparente, che si vede la cosa, la carica tutta, una bella carica si vede. L'ho bella pulita, già l'ho pulita, ho dato una rinfrescata stamattina, è pronta a montarla. Ma la monto all'altra parte dove c'avevo l'altra prima, perché dove c'avevo quella 27 l'avevo attaccata dove c'è un doppio paletti vicino alla televisione di mia figlia, no? Avevo messo uno spago legato, mentre vibrava l'antenna sua e c'era la parabola e mandava in tilt tutto il coso, internet, capito? Era un casotto. e dunque l'ho smontata, adesso almeno libera e basta. Con quei due braccetti ci ho messo quella che con quella che sto modulando adesso, non dà fastidio e va benissimo. Ok, avanti, siamo a Bacchisio. Ma adesso stai usando la piccolina o stai usando? No, sto usando quella che ho messo ieri, Bacchi. La tua non c'ho, devo saldare il PL, non arriva dentro, capito? Ah, non arriva dentro. Aggiungi, perché il capo non è un elastico, bisogna aggiungerlo. Avanti, Luca. Sì, dai, io chiudo, guarda, tra un po' andiamo a cenare, ci sentiamo domani, ciao Bacchisio, ciao Tore e ciao Marino, a domani, ciao, buona cena anche a voi. Ciao Luca, ben sentito, saluti la signorina e a domani se coincide, avanti Bacchisio. Sì, salutiamo Luca, buonasera Luca, ben ascoltato, grazie delle quattro chiacchiere, a domani se tutto coincide, buonanotte ancora, vai Tore. Sì, ciao Luca, stammi bene. Ci sentiamo domani, ok, riprimali. Riprendo gli occhi. Hai capito, sono Bacchisio, vediamo. No, ci vorrebbe almeno un metro e qualcosa, dai. Facciamo un metro e qualcosa di cavo, di giunzione e basta. Mi piacerò, è solo a saldare e basta. Adesso vediamo domani, se due minuti di tempo, mi finisco di fissare quel paletto e poi piazzo l'altra, quella da 27. Piazzo il cavo che tu mi hai saldato e manco già finito, avanti. Sì, il vento c'è stasera, io sono sul terrazzo per togliere, l'ho tolto stamattina, per togliere la staffa per metterla dall'altra parte, in un altro tubo che c'è dove la mantova la volta, però c'è troppo vento e la scala è accorta, ha detto no, non mi butta a me tu, prima di lampammi in terra ti dico ciao. Tutti sono ciò che ti ho chiamato, era c'era venticello sopra. Anche se ero sul tetto, ma c'era il venticello e ho fatto un tempo di tempo che mi ha chiamato Antonello, ho chiesto il controllo, ho detto ok, boh, me l'ho stretto, fissato, ho messo il cavo, ho messo la fascetta, ho buttato il cavo giù e piano piano mi sono sceso, poi con mio genio abbiamo scalato, abbiamo smontato il ponteggio e si è appoggiato sopra il terrazzino, il ponteggio, e poi mi ho fissato col paletto dall'altra parte, mi ho fissato, ho capito? C'è troppo vento, io la con la 27 avrà voluto per cadere io e l'ho buttata io giù a terra. Vabbè, la serpentina era quasi marcia perché appena toccata mi è rimasta in mano, ma la giampa da terra il tagante, non ce l'hai, avrà voluto cagì, fate un conto, so 1, 2 tre elementi ho piazzato e dunque è alto, capito? Poi veniva male, non vedevi vano. Viene male perché è alta l'antenna e frette parecchio, tutto qui avanti, ma chi? Sì, infatti è alta, è un problema scendere giù questo cavo delle antenne, è un problema. Non adesso se la viene bene la mia perché la porto a livello di parapetto, lascio il parapetto la fai come vuoi. Sempre se il tubo ne esce adesso, perché il tubo è entrato proprio al millesimo, giusto. Se è fatto un po' di ossido non si sposta più. Bisogna prendere la moletta e tagliare. E buttaci un po' di olio, un po' di qualcosa, prova a muoverla avanti e indietro, piano piano. Probabile che si svolgi e cammina. No, è un casotto, non ne va, pare così. E anche questa è un po' altina, pure questa qua, ma con questa mi viene più facile a piazzarla, hai capito Bacchi? La scusa che è del fianco e mi viene più facile a piazzarla questa qua. Con questa me posso andare nel mio terrazzo come ho fatto l'altra volta e la posso tirare sulla dal mio terrazzo, ho capito? Non è come quella lì, avanti to, se non riprendi avanti Bacchi. Ora ci ha mangiato il topo, sto mangiando le frittelle, la pesce da te. Ehi, che è così? Adesso questi giorni prendo e gli metto olio di vasellina, ci butto dentro al tubo, così comincia a scendere sin giù, poi pian piano cercherò di farlo girare. E così vuoi fatto, piano piano tocchi, lo fai girare un po' avanti, un po' indietro, capito? Lo giri con il pappagallo e già si smolla, se è giusto. Adesso vediamo, vabbè. Il rompimento di scatole me l'ho tolto adesso, dai, almeno con questa qui sto modulando, La 27, di tempo, un pochino. Se non ce la faccio domani, la faccio dopo domani. Pazienza. Pensate che la sono piazzata. Si altone, lasci le frittelle. Sì, mi sono perdendo delle giornate e mi sono drummendo il burro. Però non va bene tu, eh. O parli con noi o guardi la televisione. Boh, ti ho fatto 6 chiamate e non mi hai risposto. Sì, allora scusa. Anche un giorno mi pare che sia a boom boom. Ah, sta arrivando Morfeo, sta arrivando, eh. E io lo sai, quando arriva Morfeo, il re del sonno deve andare. Avanti, sono Bacchisio. Sì, Tole, non dorme la notte perché fa a rubare galline, capito hai? Adesso lui fa a rubare galline quando si alza stamattina. Parisio va sonno, vero to? Troppo pure di voi. Certo, ehi, mica vedevo delle giornate giallo. Cosa c'è il polo to? Sì, di tutto per. 9-5, io mi devo preparare tutto. Bene Marino, ce la sentiamo, ce la vediamo, è tutto. Saluto in casa, a domani. Ciao Tore, ide con le patatine, saluto in casa, a domani se tu concide. Bacchisio, ascolta il finalino, poi chiude perché causa medicine. Bye bye. Ok, ok Bacchisio, ci sentiamo domani, dai, già ti faccio uno squillo quando termino, appena esco ti chiamo. Bene, ciao Bacchisio, ben sentito, buona carica. Saluto in casa, a domani. Bene, avanti To, anch'io, guarda, ne approfitto anch'io, Tore, ben sentito, sono in casa, domani si concide, avanti Tore, per chiusura e chiudo anch'io, dai. Sì, ok, ciao Bacchisio, stammi bene, a domani, ci sentiamo, ciao Mari. Ok, domani To, ciao ciao. Non ti mangiare tutte le frittelle che ti sto controllando, ciao. E tu vuoi truppa, va? Sì, ciao, ciao.